Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è Ra della Zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla Zanzara fanno sempre questi scherzi. No, sia guardi, Cruciani, non, sia non è uno scherzo questo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Allora, caro amico mio, fra poco, tra 10 minuti, restate lì, manderemo in onda un'intervista incredibile a un tizio che si chiama Enrico Rizzi. Da quello che ho capito ha 25 anni, 26 anni, se non sbaglio. Sì, sembrava così, sì. Non ho capito se sono l'età della militanza sua in quel movimento o se la sua età anagrafica. Vabbè, Enrico Rizzi, che è, così si dice, il segretario responsabile del Partito Animalista. Partito Animalista, il quale ha scritto un post oggi su Facebook. È morto. La premessa è che è morto il presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, che si chiama Moltrer, è morto mentre andava a caccia. Enrico Rizzi, che è un animalista contro la caccia, ha scritto: il presidente del Consiglio regionale del Trentino è morto questa mattina durante una battuta di caccia, ha messo una serie di faccine divertite. Ha aggiunto: infame, adesso sai cosa vuol dire morire. Felicissimo. Questo ha scritto Enrico Rizzi, Enrico, il partito animalista, segretario nazionale del partito animalista. Sentirete l'intervista fra poco, restate lì incollati. Allora, apriamo però con una notizia, se è confermata, che avrebbe abbastanza del clamoroso, che ho avuto in esclusiva oggi, Parenzo, perché l'ho appresa da fonti riservatissime, però comunque fonti abbastanza certe. Tu sai chi ha ucciso Laura Palmer? No, una cosa che riguarda Salvini, da fonti abbastanza certe. La notizia è questa, e tu sai che Salvini è un leader in ascesa, no? Beh, assolutamente. Leader in ascesa. Seguitissimo. Pare che sia. Ha 500.000 seguaci su Facebook, per quel che può valere. Sì, ma comunque è uno che fa anche salire gli ascolti delle trasmissioni. Sì, l'abbiamo detto ieri. Pare 2%, eccetera. Però è anche in competizione con Forza Italia, perché la Lega sta rubando, tra virgolette, elettori da Forza Italia. Beh, ma sono alleati, però. Sì, sono alleati per anche il candidato, però sono concorrenti per quello che riguarda le liste. Ah, vabbè, ci sono partiti diversi. C'è la possibilità del sorpasso, certo. Eccetera, eccetera. Allora, che succede? Succede, almeno da quello che ho saputo, poi magari la cosa sarà smentita, da quello che ho saputo è che nell'ultima settimana, diciamo dall'ultima apparizione di Salvini a Mediaset, stiamo parlando di giovedì scorso durante Matrix, quando c'eri anche tu, ecco, la presenza di Salvini è stata bannata da Mediaset. Ora sembra incredibile, magari verrà smentito, però guarda il calendario di Salvini, praticamente. Ma sei venuto in trasmissione giovedì scorso, anche l'altra, ma no, vabbè. Va ovunque sempre, vabbè, ma questo lo dico io, infatti questo lo dico io, allora lo dico io perché ho avuto anche delle notizie. Se tu vai a vedere le apparizioni di Salvini previste per questa settimana fino a domenica, non c'è Mediaset, tutti i giorni c'è, no, io senza a dirgli pranzo, nulla, cena, senza, colazione, vabbè, apparizioni previste a media, alla Rai, Ballarò, alla 7, varie radio, televisioni private, eccetera eccetera, non c'è. Beh, a parte Mediaset, che c'è anche la par condicio, non atto. C'è Mediaset, però non c'è Mediaset. Una cosa abbastanza clamorosa. Tutto questo a partire dall'ultima apparizione a Matrix, in cui esordì in questo modo. Telese. In questo scenario emerge un leader. Matteo Salvini è seduto qui. Buonasera. Buonasera. Da quel momento in poi Mediaset non ha più visto la faccia di Salvini. Magari verrò smentito. Trasmissioni intere dedicate a signor Salvini, anche un po' eccessivo. Magari verrò smentito, dai, però la notizia avrebbe del clamoroso. Cioè, Mediaset mette la mordacchia a Salvini per paura del sorpasso. Ma figuriamoci, sono alleati in Emilia Romagna, dai, figurati. Questo Forza è quello Italia, che ho saputo. Non con Mediaset, con Forza Italia sono alleati. Beh, sai, Mediaset, Forza Italia. Vabbè. La cosa più incredibile che ho letto oggi, però, amico mio, è un'altra. L'intervista realizzata dal Corriere ad Alessandra Moretti. Beh, amico mio. Sì, l'ho vista. L'intervista realizzata dal Corriere ad Alessandra. Bellissima intervista ad Alessandra Moretti, la quale, secondo me, il candidato della Lega Zaia, in Regione Veneto, dovrebbe mandare, quando fa i comizi, gli incontri, eccetera, dovrebbe trasmettere questa intervista tipo loop, a ripetizione, negli altoparlanti. Ma sai? Non ha detto delle cose. Negli altoparlanti, trasmette questa intervista e vince proprio a mani basse. Vince a mani basse, proprio a mani basse. Allora, la Moretti ha parlato innanzitutto del fatto che la Bindi, secondo lei, ha mortificato la bellezza. E qui no, mi viene ha detto, no. Aspetta, senti, la Bindi l'ho sentito, ha mortificato la bellezza femminile. Ha fatto un uso diverso delle mani. No, ma stai non è edulcorando. Ma no, la Moretti ha rivendicato intanto di essere ascoltiamo. Una bella donna, che è quello che per cui la accusano, peraltro, ogni tanto, è quella di cui la accusano. Vai. La bellezza non è affatto incompatibile con l'intelligenza. Questa è la risposta alla Bindi. Sai, Rosy Bindi ha avuto il suo stile, diciamo che il nostro non sia diverso, ma per fortuna che è diverso, è cambiato il mondo, è cambiata la politica, non possiamo avere lo stesso stile delle donne. Che stile era quello? No, uno stile più austero, uno stile più rigido, uno stile anche che mortificava in qualche caso la bellezza, la capacità invece di mostrare un volto piacente. Perché uno si deve mortificare? Perché io mi devo mettere, non so, gli occhiali da sole? Beh, ragazzi, dai. Ha ragione Sgarbi l'altro giorno. Almeno la Bindi e le altre persone non hanno utilizzato la bellezza per fare carriera. Ha ragione Vittorione Sgarbi. Due cose, non sono una contro l'altra. Aspetta, eh. Tu devi sempre salvare queste persone. Ma non mi interessa, no, ma potrebbe Senti essere. Senti questa anche roba qua. Vado dall'estetista perché devo rappresentare le donne al meglio. Vado dall'estetista. Vabbè, no, perché dici, ho un ruolo pubblico. Vuoi la donna con i baffi? Non è nel mio stile. Cioè, ma se una è bella, deve essere stupida per forza. Non ho capito. Senti. Ho deciso per esempio di andare dall'estetista ogni settimana. Cosa faccio dall'estetista? Qualsiasi cosa, cioè qualsiasi cosa. Mi prendo cura di me. Mi faccio le mesh, mi faccio la tinta, poi non entriamo in altri particolari. Vado a correre, accompagno i miei figli di corsa la mattina, loro in bici, io di corsa. Su questa cosa la massacreranno sui social, no? Ma chi se ne frega? Mi potranno criticare, perché cosa devo avvenire? Con i peli, i capelli bianchi? Perché io che ho un ruolo pubblico, che rappresento tante persone, tante donne, voglio rappresentare. Presentarle al meglio. Non ho capito, perché se uno ha un po' di peli nelle parti intime non può rappresentare le donne, no, al meglio. Questo non lo ha io detto, lo sai che preferisco le donne detto. Con il pelo in ma generale. Ma non è questo quello che lei ha detto. Lei ha detto un'altra cosa. Lei ha detto che si che prende cura dall'estetista. No, ma non cioè, solo perché che corre. Ma no, ma non è in contrapposizione alla Bindi lei. Dai, lei ha detto si prende molto cura di se stessa. Poi ha detto non ci intimidite. Perché ha un ruolo pubblico. Non ci intimidite. Ho capito, vado dall'estetista. Ma non ci intimidite perché l'hanno attaccata per la sua bellezza, per i suoi occhi azzurri. Le hanno scritto cerbiatta. Lei rivendica di essere bella e intelligente. Ma su questo dov'è lo scandalo? Questo non capisco. Dai, poi senti, da te è uno scandalo da te. Infinito. Ma che c'entra? Ma dov'è lo scandalo? È una politica. Senti, poi si può giudicare le sue qua. Idee. C'è ma tempo. È bella senti e intelligente questa. A parte che bella lo dici tu. Perché no, si dà da sola no, si dà da sola della bella. Ma no, dai. Glielo dicono sulle non riviste patinate. Ogni giorno la attaccano per questo. Scusa Davide, c'è non tempo, è giusto. Su, abbi pazienza, dai. Non è giusto. Non dire cazzate. Ma chi l'attacca? Dai, non ci intimidite, dai. Sappiano che non ci intimidiscono, anzi, che più fanno così, più continueremo ad essere più belle, più eleganti, più curate, più brave, più pronte, più tenaci, più coraggiose. Ma che c'hai? Che t'ho fatto? Ma perché c'ho gli occhi blu? Perché sono anche bella oltre che brava? Ti dà così fastidio? Allora la gente, mica è scema, capisce. Sei brava e intelligente, allora ti attaccano. Sei brava, intelligente e bella, ti attaccano ancora di più. Allora si dà della brava, intelligente e non so che altro. Da sola. Torniamo tra un attimo. La Zanzara. Let's go. Pronto? Signor Rizzi? Sì. Buonasera, sono Cruciani. E Parenzo, come sta? Come va? Come va? Come va? Amico come, mio! Come va? Come va? Che bella! Insomma, amico mio! Vediamo dopo se è bello, amico. Tutto a posto? Mi mancava Cruciani. Bene, bene. Che è successo? Che è successo? Ci racconti tutto, ci dica tutto. Allora, lei ha scritto questo bellissimo post su Facebook. Il presidente del Consiglio regionale del Trentino è morto questa mattina durante una battuta di caccia con tante faccine. Cruciani, dove vuole arrivare? Arriviamo al dunque. Alla stronzata che ha detto. Vogliamo arrivare solo a questo, guardi, infame, adesso sai cosa vuol dire morire. Infame, adesso sai allora cosa. Io dovrei discutere con lei, sì, che è a favore della, delle pellicce, che è a favore dei circhi. Vabbè, ma che c'entra? Che è a favore di tutto quello che riguarda la morte e morte, lo sfruttamento degli animali. No, però scusi, allora io con Rizzi, con un imbecille come lei non ho proprio nulla da dire. No, Rizzi, guardi, scusi un attimo, scusi. Perché lei è mi dica forza, Rizzi, parli. Io sono a favore di tutto questo, ma lei dovrebbe avere, come dire, piacere a discutere. Benissimo. Con me. E allora, no, non ho piacere a discutere con lei, perché guardi, lei rimane della sua opinione, della sua perché io che sono usa tutte le volte che conduce questa radio idiota, sì, e poi viene a telefonare. Ma scusi, lei è felice per la morte di una persona, per la morte no, di una persona. No, di un cacciatore diverso. Ma è una persona, ma è diverso, è un non uomo. Non me ne può fregare di meno. È questa un persona uomo. Ogni giorno prende un fucile, si esce alle 6:30 del mattino, imbraccia un fucile e sa benissimo che va ad uccidere altri esseri viventi. Ma okay, scusi, ma lei non ha mai quindi ucciso una zanzara? Ha mai ucciso ma una zanzara, una formica? Imbecille, Cruciani, non faccia l'imbecille. Ha ucciso una zanzara, una formica? Imbecille in questa radio, cioè guardi, veramente. Io, adesso io mi sto prendendo, io non l'ho insultata fino adesso e lei no, mi ha insultato lei, già 4-5 volte, ma lei, va benissimo. Ma quando lei dice la zanzara, ma cosa c'entra? Guardi, io pure, guardi, io per lavoro viaggio tutti i giorni e faccio 300 km al giorno, è uscito tantissimi insetti, che paragone mi sta facendo? No, ma è un paragone funerale per un insetto che ha ucciso. Ma che paragone mi sta facendo? Ma no, è un paragone perché gli animali sono tutti uguali, una zanzara non vale meno di un uccello. Lo ha capito? La smetta, ma la smetta. Io nel mio piccolo cerco di rendere il mondo più giusto possibile. Vabbè, nel mio piccolo non sono perfetto. Ma è morto. Senza quello. Dubbio faccio i miei ma scusi, errori. È morto un uomo. Un uomo un è morto. Uomo, è morto un assassino. Ma scusi, ma la famiglia semplice. Di fronte al fatto. Metta che qua. Della famiglia? Ma lei sa chi se ne frega della signore? Famiglia? Ma cosa vuole sentirsi dire questo? Io lo guardi come un. Guardi, lei è l'ennesima persona che oggi mi sta intervistando. Parte potrebbe farmi comparire il suo numero invece di fare. Anzi, l'estinta pure bene che le ho risposto, ma a parte quello, ma che c'entra? Come lei mica ha nulla da nascondere, scusi, mica. No, ma infatti no, lei allora ha da nascondere che mi chiama con l'anonimo. Io ma che c'è l'anonimo? I centralini la faccia e la voce su quale scrive. Mi hanno chiamato oggi 50.000 giornali. Rizzi, hanno tutti credo chiamato dal proprio cellulare. Rizzi, lei Rizzi, con le posso dare una spiegazione di questo? No, le posso dare una spiegazione di questo, allora, molto guardi, semplice. Se il centralino del Sole 24 Ore, il centralino del Sole 24 Ore ha i numeri che appaiono numero privato, chiaro? Ascolti, lei mi sta chiamando perché io ho scritto un post, sì, dove ho detto che sono felice che è morto un cacciatore. Ecco. No, allora, è morto una persona, non un cacciatore. È morto un cacciatore, un assassino, poi un via, hobby, un infame. Okay? Per ma me la famiglia, la moglie, i figli, come no, devono me sentirsi ne frega di fronte? Non niente della famiglia. La famiglia sapeva benissimo famiglia? Cosa andava a fare. Cioè, sono assassini pure loro, sono complici di un assassino. No, parenti no, di un assassino. No, io non ho nulla contro la famiglia, ci mancherebbe. Ma ha appena detto che non gliene frega niente. No, non mi interessa a livello se soffrono, so problemi loro, non mi interessa, ma non sto dicendo che sono come loro, come il cacciatore, ci mancherebbe altro, me ne guarderei bene. Io sto parlando solo di questa persona che, ripeto, si sveglia la mattina, come tanti altri, sì, si sveglia la mattina, prende un fucile, sì, e non gliene può fregare nemmeno di quello che incontra, uccide conigli, volpi, di tutto. Uccide di quello più che è possibile uccidere secondo la legge. Ma Cruciani, la legge purtroppo c'è, permette la caccia, ma non vuol dire che quello che permette la legge è giusto. Ma okay, scusi, chi mangia la carne che cos'è secondo lei? Un assassino. Complice di un assassino? Ma allora guardi, allora lì lei ha mai mangiato la carne di la carne di la carne. Lei l'ha mangiata, benissimo. Guardi, allora, come vengono dico uccisi gli animali? Guardi, lo so, non me lo venga a dire a me, dovrebbe allora saperlo lei. Allora non mangi la carne, non mangia il pesce, non mangi il pesce, non mangi niente. Ma io sono vegano, Ma da qua, ma si è appena detto che ha mangiato la carne? Allora guardi, se lei mi fa parlare aspetta, io aspetta, lasciamolo parlare, lasciamolo parlare, lasciamolo parlare. E no, anche le scarpe non deve mettere. No, Rizzi, dimmi. Metto le scarpe di tela. Le metto, sono di ecopelle, le metto. Non compro ecopelle, quelle di pelle, è semplicissimo. Amico certo, mio, di ecopelle, no. Guardi, ecopelle, no. Guarda, ma no, lei vede qual è il problema? No, che voi la prende. Io parlo di un argomento no serio. Ma perché noi siamo serissimi? Siamo serissimi. E lei sta prendendo gioco di una causa di civiltà. Lei si dovrebbe vergognare. Gestisce questa radio buffona. Ma lasci perdere la radio buffona. Ma rispondere meglio. marito che ha dato si è, allora io le ho risposto, se lei mi dice che mangiavo carne io le sto dicendo di sì, non bene, sono allora è complice di un assassino, è complice di un assassino, no, no, è diverso, perché io mi sono reso conto che era sbagliato, si è redento, che non diciamo. Era giusto, sì esatto, mi sono reso conto che era luce. Una cosa sbagliata, no, non è che ho visto la luce, ho visto la fine che fanno i poveri animali nei macelli, mi sono ed reso è diventato conto vegano. Che non è giusto, ed è diventato io, vegano, sono, no, sono diventato prima vegetariano e da 3-4 anni sono vegano, vegano, ok, quindi io le mie colpe ma ce lei ai le cacciatori cosa farebbe ai cacciatori? No, che fosse per lei ma i cacciatori ma cosa c'entra sto discorso? Ma no, ma è una domanda. Cosa una domanda che dica? No, quello che sente, quello che pensa dei cacciatori, cosa pensa dei cacciatori? Ma io mi auguro che facciano la fine che ha fatto sto signore che ha fatto la fine ieri. Tutti morti, le catombe dei cacciatori, tutti morti. Guarda, ah, visto che la politica, schifosa che abbiamo in Italia, di politici corrotti, buffoni, che pensano solo ai soldi, visto che questa attuale classe politica, destra, sinistra, centro, fascisti, nazisti, scusi, comunisti e chi ne ha più ne metta, permette questa vergogna, allora io insieme mi credo a centinaia di migliaia di persone, boh, ci auguriamo che questi signori si sparino tra loro, si uccidono tutto, si tolgano dalle scatole, aspetta, in modo tale che gli animali possono continuare a vivere come bello, la natura. Che bello, che cosa bella. Che cosa bella. Ma lei continua a fare quello che no, fa. No, ma il partito animalista quanti voti ha? Quanti voti, ha il partito animalista? Allora, lì lei deve stare attento a cosa dice, perché io non ho detto niente, ho fatto una domanda. Non ha nessun parlamentare attualmente, perché è nato da 5 anni, non è come Forza Italia, il PD e tutti gli altri partiti, è nato da 5 anni, non ha parlamentari, non prende finanziamenti pubblici, punto primo, certo, punto non secondo non prendiamo neanche, no, io lo spiego perché chissà vuole far passare il messaggio che prendiamo soldi, ma io guardo, noi non prendiamo soldi. E le dico pure di più, noi non prendiamo neanche le tessere associative, nonostante c'è gente che se le vede la pagina nostra Facebook nel giro di un anno abbiamo avuto più di 300.000 fan. Ma lei non si vergogna di aver scritto infame, adesso sai cosa vuol dire morire? Cioè lei si dovrebbe vergognare. Ma lei si deve vergognare. Ma si deve vergognare. Io ma che c'entro? Lei si dovrebbe questo vergognare. Signore, ma scusa, questo signore cosa faceva tutti i giorni? Era andava un politico, aveva una professione, a tempo perso, per hobby, faceva il cacciatore. Certo, perché per hobby uno va a uccidere. No, è bella, per hobby la caccia hobby. Esiste da quindi, quando esiste l'uomo. Da quando esiste dire? L'uomo. E che cosa, quindi lei si è fermato alla preistoria. Siccome lei lavora in questa radio, giustamente si è fermato alla preistoria. Ma che c'entra la radio, scusi? Che c'entra la radio? Sì, ma lei lavora, ma dove lavora lei? Alla radio degli Confindustria, allora? Radio 24, che è la radio dei padroni, la radio dei cacciatori, che cos'è? No, vabbè, guardi, lascia, non tocchiamo questo tasto, la prego. No, la no, prego. Lo tocchi, lo lei tocchi è pure. Sai perché l'Italia va male? Perché purtroppo c'è gente come lei che sta lì, non fa nulla dalla mattina alla sera, dice quattro strontate purtroppo in radio. Sa, mi pagano per divertirmi, mi pagano per divertirmi. Ma lei mi sta chiamando non per farmi un'intervista. Ma perché questa che cos'è? Questa non è un'intervista. Non è un'intervista questa. Buffona, guarda. Perché buffona? Scusi, lei sta spiegando il motivo per cui ha scritto quella roba lì. Quale intervista buffona? Ma vede cosa mi dice? Cosa farebbe un cacciatore? Lei mangiava la carne, le scarpe di pelle, poverino. Certo, per trovare delle contraddizioni che sono evidenti nella sua vita, col fatto che lei dice che questo qua è un assassino. Ci sono delle contraddizioni evidenti nella sua vita. Evidenti. Lampanti. Lampanti evidenti. Ma perché ci sono delle contraddizioni? Scusi, gli animali sono tutti uguali. Gli animali, secondo la sua filosofia, dovrebbero essere tutti uguali. Lei uccide quotidianamente animali, dalle mosche alle zanzare, alle formiche. Come no? Ma non ha mangiato per tanti anni, ha mangiato, ha mangiato la carne. Senta, io almeno ho cambiato stile di vita e ripeto, nel mio piccolo cerco di ridurre il più possibile la sofferenza degli animali e di chi mi sta intorno. Questo va benissimo. Lei cosa fa? No, ma io non faccio niente perché non ho la sua stessa cosa filosofia fa? Ma l'importante non no ma io la rispetto. Allora, se lo lei sa, ha visto il mio profilo, io ne ho io 25 anni, compro il primo dicembre, ma li compio 25. Ma lo sa qual è? Scusi, io 10 anni che ho una bambina adottata, io nel ma mio che piccolo c'entra, scusi. No, le faccio la differenza, non è che è un buffone che dice stupidaggini in radio. Vabbè, e io che nel mio piccolo cerco senta, di fare. Senta, lei sta giudicando la mia vita, la mia vita, io glielo permetto, perché la sua di dire cavolate in radio, di difendere circensi, di difendere cacciatori, che cos'è la mia di dire cazzate in radio mentre lei adotta una bambina vergognare. E la sua vita è più degna della mia. La sua vita è più senza degna dubbio, della mia. Guardi, senza dubbio. Io vabbè, mi ma guardi, siccome lei, siccome lei è pazzo, io nemmeno. E vado a lavorare. E va a lavorare. Invece io che faccio? Io non lavoro invece. Sì. Io non lavoro. Ma che lavoro è il suo? La Zanzara. Guarda, perché io sono un tossicodipendente della Zanzara, capito? Vi ascolto mattina, vi ascolto la sera in podcast, sempre vi ascolto. Amico mio, sentiremo fra poco un'altra parte dell'intervista a questo signore 25enne che si chiama Enrico Rizzi del Partito Animalista, il quale dà a me dell'imbecille, del buffone, mentre esulta per la morte di una persona, cioè manda un Facebook, manda un post su Facebook, scrive sul net, sul web una cosa del tipo: sono contento, infame, quello che è morto solamente perché era un cacciatore. Io sarei il buffone, eccetera, eccetera. Una roba incredibile. Signor Rizzi, Enrico Rizzi. Sentiremo ancora altre cose più avanti, signor Enrico Rizzi. A proposito di animalisti, ci sono alcuni che vogliono proteggere gli scarafaggi. Allora, siccome alcuni insetti, cioè questi insetti, gli scarafaggi, sono inseriti, sono pilotati tra le macerie alla ricerca di superstiti, cioè tra le macerie dei terremoti, l'amico animalista Walter Caporale, il signor Walter Caporale, te lo ricordi, ex consigliere regionale in Abruzzo, sì, con cui sì, abbiamo battagliato qualche settimana fa, dice che devono essere protetti. Ti giuro, Ma cosa serve? Ma gli scarafaggi servono anche loro, effettivamente. L'uomo qualcosa, torna a sfruttare gli animali, dice. Lo scenario è inquietante e sembra solo agli inizi. Cioè, gli scarafaggi in questo progetto hanno in realtà una loro ragion d'essere, cioè trovano in qualche modo il modo di essere utili all'uomo. Cioè salvano i superstiti dei terremoti. Potrebbero salvare, adesso non lo so, no? Cioè, però c'è tutto un progetto. Cioè, potrebbero scovare sotto le macerie eventuali sopravvissuti. Dunque, in realtà potrebbero avere una funzione in questo caso, no? Ebbene, secondo gli animalisti no. Secondo gli animalisti vanno protetti anche gli scarafaggi. Cioè, gli scarafaggi. Ragazzi, dai, su. Vi dico subito, questa è una puntata strepitosa, eh? Avremo veramente tantissima roba, ma andiamo con la taverna, che ha trovato una più cafona di lei, gente più bora di lei, ma io non lo dico in senso negativo, cioè perché la taverna ha fatto della sua, se volete, della sua aggressività, della sua, del suo slang, del suo dialetto romanesco, della sua spontaneità, la sua forza. Ebbene, però, nel caso di Tor Sapienza ha trovato gente gente più dirompente, verace. Gente più verace di lei. Com'è quella storia dei puri? No, c'è qualcuno poi... più puro che ti è pura, diceva. Esatto. Taverna. Anzi che se qui se piove non s'allagamo. S'allagamo questi e fogne sono tutte otturate. E non mi venite a chiamare politico perché mi incazzo seriamente. I politici sono quelli che ci hanno detto così. Io sono un cittadino all'interno delle istituzioni per portare questa situazione là dentro. Questa. E vengo da libera cittadina qua. Io non vengo qui a fare passerella, a me non mi interessa. Se loro vogliono votare domani qualunque partito, sono cavoli loro, ma devono andare tutti in consiglio comunale quando discuteranno questi provvedimenti e sentire che cosa la politica fa della loro vita. Questo è un paese abbandonato, le periferie di Roma sono abbandonate, se ne fregano tutti. Poi quando tu ti ribelli sei un razzista, qui nessuno è razzista, noi qui con gli extracomunitari ci conviviamo e li aiutiamo perché l'Italia è un paese accogliente che non si aggira dall'altra parte quando la gente sta nella merda, perché nella merda ci stiamo noi per primi. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Due palestinesi irrompono in una sinagoga, uccidono quattro rabbini, Hamas festeggia, ma Abu Mazen condanna l'attentato, cresce il timore di una nuova intifada. Scontro nel PD sulla legge di stabilità, 8 emendamenti da parte delle minoranze per correggere la manovra, i renziani agiscono come se fossero fuori dal partito. Presentato l'emendamento del governo al Jobs Act, reintegro limitato ad alcuni casi di licenziamento disciplinare, per quelli economici previsto un indennizzo. Dopo le piogge ora in tutto il centro nord resta la paura delle frane, solo in Liguria danni per 1 miliardo di euro, 1100 sfollati per la piena del Po. Sul caso multe il sindaco di Roma in assemblea capitolina chiede scusa, ho pagato anche se non dovevo, ed escludere dimissioni, contestazioni dal pubblico. Lanci di pietra da parte degli antagonisti, cariche delle forze dell'ordine e lacrimogeni durante lo sgombero di 2 centri sociali a Milano nel pomeriggio. Nel nome di Garibaldi e di Mazzini, in un video il rito di affiliazione alla 'Ndrangheta, 38 arresti in Lombardia, gli inquirenti in mafia feroce con sconfinamenti in Svizzera. Allora ragazzi, io non capisco una cosa, avete sentito anche dai titoli del TG3 di adesso, incidenti, caro Parenzo, per lo sgombero di alcuni centri sociali a Milano, no? Sì, allora, sì. I centri sociali, cari amici che state nei centri sociali, dovete rendervi conto che la festa è finita. È finito tutto, è finita questa roba che uno occupa spazi non propri, c'è il diritto di proprietà. Se uno non è proprietario di un posto, non ci può stare, dovete andare fuori dai coglioni, con le buone o con le cattive. E siccome per fortuna il vento è cambiato, per esempio qui di fronte, no? Di fronte alla sede del Sole 24 Ore a Milano, c'è un centro sociale che è il posto dove c'era il vecchio derby, una volta locale storico di Milano. Per quale cazzo di motivo il comune di Milano non manda i carabinieri, la polizia, eccetera, ma in maniera pacifica, dire guarda, questa qua è roba nostra, cioè anche mia, perché abito a Milano e pago le tasse a Milano, perché non manda fuori questa gente? Per carità, saranno pacifici, sarà gente normalissima, faranno le loro feste, ma perché io devo dare una parte della mia proprietà a questi signori? Per quale diavolo di motivo devo dare una parte della mia proprietà a questi signori? Perché in virtù di cosa? In funzione di che? Qual è il motivo? La festa è finita, gli sgomberi, inutile che protestate per gli sgomberi, è finita, tornate a casa, andate a lavorare, fate altre cose, riunitevi nelle birrerie, nei locali, pagate, tirate fuori i soldi, quattrini. Ma alle volte svolgono un ruolo anche sociale questi qui, ecco, non è arrivato che sono lui soltanto... con ruolo sociale. No, è arrivato questo non è che con sono sociale. Dei delinquenti tu. Io non ho detto che sono delinquenti, non ho pronunciato alle questa volte parola. Svolgono un ruolo non che la politica pronuncia... non svolge, svolgono un ruolo sociale. Senti, ad ruolo esempio. Sociale me ne sbatto i coglioni. No, io ne ho visitati, ne conosco molti di centri sociali. Il ruolo sociale, alcuni sono violenti, chi lo decide? Altri... Ma io non ho parlato di violenza. Beh, infatti. No, non io è chi lo parlando. Decide. Loro alle volte fanno, ad esempio, dei corsi di italiano per gli immigrati, molti centri corsi sociali. Corsi di italiano per gli immigrati, sì, centri sì, cose sociali. Che dovrebbe fare la politica, che dovrebbe organizzare la politica, Parenzo, che cosa non riesce a fare. Parlando? Stiamo parlando di una cosa molto concreta. Cioè, alcuni centri sociali. Ti sei veramente ammattito. Io penso che tu ti sei hai perso veramente la trebisonda. No, alcuni sono violenti. Ma lascia, perché io non sto parlando di violenza. Altri vanno sgomberati. Svolgono un ruolo sociale come le associazioni. Fine a questa follia, gli a questa si può dare follia. Un canone agevolato, come canone spesso accade. Agevolato. Come spesso accadono accade alle ONG, ma alle organizzazioni non governative, ad esempio, che hanno canoni agevolati. Accanto, abita in famiglia. Vabbè, qui non lo so, insieme io non a con i genitori che hanno magari l'attico a Roma, oppure ma qua a Milano a San Siro. No. Ma è così, no. Gianni da Brescia, fammi sentire Gianni, dai. Basta, la festa è finita. Amici miei, è finita. Sgombriamo tutto. Gianni Brescia. Dai, è finita la festa, sì. Dai Gianni. Non c'è nessuna festa, ma c'è stata per anni, come no? Sì. Vai Gianni, dimmi. Mi senti Parenzo, mi senti? Buonasera, sì. Buonasera. Senti, no, io avrei avuto piacere di parlare con quelle minchioni di prima, che è Rizzi. Sì, ma noi non ci mettiamo a quel livello. Comunque vada. No. Niente, io dico solo la mia esperienza. Io sono stato settimana scorsa e 15 giorni fa, sono stato al confine tra l'Ungheria e la Slovenia. A sparare. Ho sparato a 250 metri, io spero che Rizzi mi senta, 250 metri, ho tirato giù un capriolo, 250 metri col primo colpo. E si è divertito? Sì, mi è piaciuto. Cioè lei ha tirato giù un capriolo a 250 metri al primo colpo e ha goduto. E ho goduto. Cioè meglio di una scopata. Meglio di una scopata. No, beh, adesso no, dai. Vabbè, adesso, Gianni, adesso, abbia pazienza. Qualcuno la pensa così. No, questo punto. Fermo lì un attimo, purtroppo ci dobbiamo fermare, ma torniamo subito. Siamo qui. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. La Zanzara. Rock it. tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Ma sai che l'altro giorno ho fatto un calcolo a proposito di quello che dice questo ascoltatore ormai da qualche questo tempo? Questo è Riccardo. No, no, non è Riccardo, no, no. Sembra Riccardo da Roma, non è Riccardo da Roma. E l'altro giorno ho fatto un calcolo, noi iniziamo alle 18.30, dovremmo iniziare, così c'è scritto sulle brochure, no? 18.30. Noi sai quanto siamo in onda tra le 18.30 e le 20? Tu lo sai quanto tra siamo in onda? Tra le 18.30 c'è una pausa di 15 minuti ma per in fortuna tutto, per fare in la tutto, pipì? In tutto, quanto siamo in onda tra le 18.30 e le 20? E le 20. Sarà almeno un'ora e mezza. 50 minuti. 50 minuti, 50 fottutissimi minuti tra le 18.30 e le 20. Cioè, è chiaro o no? Cioè, questa non è una trasmissione radiofonica, è un inizio, un pensiero di meno trasmissione male radiofonica. Che c'è la pubblicità, però. Vabbè, ma tu, ma che c'entra pubblicità? Tutto il resto, vabbè, lasciamo perdere. Eravamo con Gianni da Brescia. E a proposito, mi scrive un tizio che ha nome e cognome, per fortuna, su Twitter, un tale Filippo da Fiume. Magari non è vero che si chiama Filippo da Fiume. Che fa il CFO, non so che cazzo vuol dire, cioè credo una specie di amministratore delegato, no? In un'azienda, il quale dice: e perché un escremento umano come te, caro Giuseppe Cruciani, ha una trasmissione in radio? Mistero. Caro CFO, come cazzo sei? Guarda che ci sono diverse spiegazioni. Alcune hanno a che fare con i numeri, forse i numeri non ti sono chiari, dovrebbero esserti chiari. Eravamo con Gianni da Brescia, il quale spara agli uccelli e si diverte, giusto? Sì, esatto. Ma quante volte spari, Gianni? Non ho capito. Eh beh, no, adesso gli uccelli qui in Italia non ci sparo più perché le leggi sono diventate un po' impossibili. Vado all'estero e sparo a selvaggina grossa. Selvaggina grossa, caprioli, sì, eccetera, caprioli, eccetera. Cerri, ma non ti fa un po' impressione uccidere un capriolo, un cervo? Ma io vorrei parlare con questo cazzo di quello di prima. Enrico Rizzi, il quale si è rallegrato per la morte del presidente della regione Trentino Alto Adige. Ma io dico una mente baccata. Io mi rendo conto che il cacciatore non può essere simpatico a tutti, perché poi quando io dico che ho sparato il capriolo, però io vorrei tanto parlarci con lui e digli: io settimana scorsa ho mangiato il filetto di puledro, mi è piaciuto tantissimo, settimana prossima vado a mangiare il cinghiale con i funghi con gli amici, mi è piaciuto tantissimo, mi piacerà sicuramente. Cioè, ma cosa vuol dire uno che, perché non è cacciatore, augurare la morte, rallegrarsi della morte? Cioè, ti rendi conto di quello che sta dicendo? Beh, a me lo dici. Franco da Modena, vai, Franco. Franco, eccomi. Vai, dimmi, ciao. Dimmi. Ciao, no, credo che il grosso problema sia di Rizzi, sia di questo ultimo, sia il suffragio universale, cioè il mio voto vale come quello degli altri, questo qua, di questi qua, ma c'è una mediocrità totale. Vabbè, ragazzi, questo qua invece pensa che noi siamo dei buffoni, degli imbecilli, e questo è il punto, hai capito? C'è uno che si augura, è felice per la morte di una persona, semplicemente perché questo qua fa il cacciatore. Uno c'è l'orgasmo perché abbatte il capriolo, l'altro... No, non ha detto l'orgasmo, adesso quello l'hai detto tu, dai. Vabbè, lo dico io, lo colorisco un attimino. L'altro, qual è il problema? L'altro è incassato anche con gli animali carnivori, siete. Con i gatti che mangiano i topi, con il leone che mangia la gazzella, sarà incazzato con tutti questo qua. Anche con gli animali che mangiano gli animali, è vero, è vero. Ciao amico mio, ciao. Ciao. Enrico Rizzi, segretario del Partito Animalista. In questo modo ci ha risposto qualche istante fa. Lei è felice per la morte di una persona, per la morte no, di una persona. No, di un cacciatore è diverso. Ma è una persona. Ma è diverso, è un non uomo. Non me ne può fregare di meno. È questa un persona uomo. Ogni giorno prende un fucile, si esce alle 6:30 del mattino, imbraccia un fucile e sa benissimo che va ad uccidere altri esseri viventi. È morto un assassino. Scusi, ma la famiglia di fronte al fatto metta che qua della famiglia, ma lei sa chi se ne frega della famiglia? Ma chi se... ma cosa vuole sentirsi dire? Lei mi sta chiamando perché io ho scritto un post, sì, dove ho detto che sono felice che è morto un cacciatore. No, allora, è morto una persona, non un cacciatore. È morto un cacciatore, un assassino, poi un infame, ok? Per ma la famiglia, la moglie, i figli, come devono sentirsi di fronte? Non me ne frega niente della famiglia. Io insieme, mi creda, centinaia di migliaia di migliaia di persone, ci auguriamo che questi signori si sparino tra loro, si uccidono tutto, si tolgano dalle scatole, in modo tale che gli animali possono continuare a vivere. E l'intervista è proseguita così. Io non sto cambiando le carte in tavola. Si è rallegrato per la morte di una persona. E glielo confermo. Ma no, ma infatti questo va benissimo. Sono felice, Cruciani. No, Cruciani, sono felicissimo. No, ma per carità, se voleva sentirsi dire questo. No, ma io non volevo sentirmi dire. Io la chiamo, non la conosco. La chiamo e le sto facendo delle domande. Lei invece mi insulta, se la prende con la mia vita senza conoscermi e dice delle cazzate inaudite, secondo me. Non sto prendendo con la sua vita. Io non le ho detto questo. Come no? Siccome lei offende la mia. Io offendo la sua. Io offendo la sua. Io non prendo in giro nessuna sua. Guardi, io rispetto la sua, è lei che non rispetta la vita degli altri. Rizzi, Rizzi, il fatto che lei sia vegano e sia contro la caccia e sia, abbia adottato una bambina e faccia di tutto per uccidere gli animali, io è una cosa che rispetto. Lei invece non rispetta gli altri, questa è la differenza, non capito? È un discorso di non lei non rispetta perché se è rimasto allora, contento, ha espresso felicità per la morte di una persona e pensa che tutti quelli che è un assassino. Guardi che la famiglia di questo qua le dovrebbe fare un culo così, lo sa, le dovrebbe fare un culo così. Guardi, se io sono felice che quello è morto, quello Stato per cosa mi deve condannare? Vabbè, ma lasciamo perdere adesso questa roba qua, lasciamo perdere. Ma lei mi dice mi deve fare un culo, che culo mi deve fare? Vabbè, io dico la famiglia per quello che lei ha detto, per quello che lei... Siccome è morto, non mi può più denunciare. Ma si vergogna anche di quello che ha detto, si vergogna anche di quest'ultima cosa che ha detto. Ma si vergogni lei, ma si vergogna, Cruciani si deve vergognare. Comunque lei ha una qualità, lo sa? Io non la conosco. In questi 20 minuti che abbiamo parlato, lei ha una qualità che non è come molti di quelli che dicono le cose e poi si tirano indietro dicendo no, io non l'ho detto. Ma io glielo confermo. Ma no, ma questo da un certo punto di vista... questi imbecilli che mi stanno scrivendo su Facebook e mi stanno intasando la bacheca di minacce, di tutto, di più, vieni, vieni. Io sono salito in Trentino 4 volte per difendere Danica, che io non vado col volto coperto. Io quello che dico, glielo confermo. Ma questo le fa onore il fatto che lei confermi. Cosa preferisce che le dico no ha ragione, no non l'ho scritto io? Io sto dicendo un'altra cosa, Rizzi. Sto dicendo che questo signore è morto. È morto. E lei pensa invece stava a casa e non succedeva. Se stava a casa. Non succedeva. Cioè, se moriva in un incidente stradale, per lei era morto un assassino lo stesso, era morto un cacciatore certo, uguale. È sempre, ma guardi, allora il discorso della fatalità cioè, è morto per un malore. Dunque, quindi lei giudisce ogni volta. Perché infame poi? Infame, perché uno che prende il fucile e si mette a confronto con un povero coniglietto di mezzo chilo o di un uccellino di ma per lei grani, gli animali e gli esseri umani e sono lo squarta in mille pezzi. Ma che pensi che sia una persona per bene questa? Squarta, ha sparato. Però scusi, Rizzi, guardi, una volta sono andato a caccia con mio zio in Madagascar. In Madagascar. Ero osservatore perché non potevo sparare, anzi potevo sparare perché in Madagascar ho fatto qualche colpetto in Madagascar. Lei si dovrebbe vergognare, guardi, se lei mi sta dicendo questo perché vuole che io le dica qualcosa, io più di dirle di vergognarsi. Ma no, io non mi vergogno per niente, mi sono divertito con un matto, con le anatre, divertentissimo. Vado a affrontare faccia a faccia una tigre o un leone. Vabbè, ma se fossi cacciatore. Allora, guardi, se lei mi riesce a uccidere un animale, io le faccio complimenti. Però non deve avere nulla, a pari armi. Sì, nulla, vediamo chi vince tra lei e la tigre. Mica sono un suicida. Prendere un fucile e sparare, siamo tutti però, bravi. Però, Rizzi, scusi un attimo, io voglio capire, per lei gli esseri umani e gli animali sono uguali? Assolutamente sì. Cioè, se lei da... esseri umani, sì. Se addirittura certo. Lei pensa che magari gli animali, alcuni animali sono meglio di certi uomini. Ma guardi, se la mettiamo in questo piano, molte volte senza dubbio gli animali sono meglio delle persone. Ma io rispetto sia gli animali che le persone. No, le persone, tranne i cacciatori. Tranne gli assassini, e ci mancherebbe. Cosa vuole dire la famiglia di questo signore, del presidente Moltrer, come si chiama? Ma io non ho niente da dire, guardi. Cioè, non ho niente. Io ho semplicemente esposto un mio pensiero. Non ha niente da dire alla famiglia di questo. Montrelli, non so come cavolo si chiama questo signore, o lui o un altro, se lei va nella mia pagina, visto che se mi ha chiamato la pagina mia l'ha vista, non l'account, la pagina mia ufficiale, pagina, l'ho vista. 8.000 persone, 9.000 sì. Quelle che sono, se lei vede ci sono post di altri cacciatori che si sono uccisi dal 1° di settembre. E io sono felice, glielo confermo, felice. Perché più si ammazzano tra di loro, più animali sono salvi. Vabbè. E purtroppo è così, funziona così in va Italia, bene, Rizzi. Visto che la legge permette questo. Rizzi. Se si voleva sentire dire questo... No, ecco. Io non mi volevo, se lei è fissato su questa cosa, io l'ho chiamata per chiederle, a modo mio naturalmente, perché ognuno ha il suo modo di intervistare, io ho questo, per chiederle alcune cose. Lei mi ha risposto, non ha ritrattato, e questo da un certo punto di vista le fa onore, diciamo. Punto e basta, la ringrazio, buona serata. Salve. Grazie. zanzara è il tendone dei fenomeni da baraccone, e ripeto, lo dico con amore. La zanzara. Io vorrei fare risentire quello che ha detto Alessandra Moretti oggi in un'intervista al Corriere, perché fai è incredibile. Bene, perché ha ragione. È abbastanza incredibile. Ha rivendicato la sua bellezza, il suo ruolo, le sue cose, quello che la attaccano per essere bella. Io sono bella, io sono Lady Like, una cosa del genere. Il nostro stile è Lady Like. No, per dire, siccome tutti i parrucconi mettono in discussione. Ma chi? In generale, la polemica che si fa in questi giorni, in queste settimane su di lei, non è su una di lei polemica. È il paraculismo politica. Della politica, quello sia il paraculismo. Paraculismo della politica, quello è un altro discorso. Hanno scritto, hanno detto tutta il paraculismo belloccia. Della. No, ma la bellezza nessuno lo rivendica. Scritto. Che bisogno ha? Fa politica da tanti, senti, tanti Lady anni. Lady Like. Vabbè, ma. Marianna è una ministra brava, intelligente e bella, oltre che elegante. Marianna Boschi è brava, intelligente e bella, è una delle ministre più fotografate, ma giustamente, perché ha una sua eleganza, un suo stile, e lo rivendica, perché il nostro stile di fare politica è uno stile ladylike, cioè uno stile che deve piacere. Ragazzi, io veramente, cioè uno... Siamo oltre quello che poteva essere. Cioè Berlusconi era una cosa molto più esplicita da questo punto di vista. Cioè, candidava le belle ragazze perché pensava. E qua era talmente. Non c'era la rivendicazione del. La Moretti fa politica da tantissimi anni. Lady. Guarda che la Moretti. Tu dovresti fa non ridire da uomo di sinistra quando uno ti dice Lady Like. Ma no, io non ridisco sui luoghi comuni. Non di fronte a una donna che rivendica anche la sua bellezza, visto che la attaccano anche per quello. Ma la signora Moretti. Ma chi la attacca? Continuazione anche tu adesso. È invitata tutti i giorni in tutte le trasmissioni televisive italiane. Ma chi l'attacca? Chi? Che c'entra? Giusto Scanzi, meno male, santo. Ma santo che Scanzi, ma va bene, ma si può attaccare Scanzi, dal punto di vista politico, Scanzi, non per la bellezza. Dal punto di santo vista Scanzi, sulla... che è l'unico che l'attacca, spada ma sulla tratta, la schiena dritta, può con la spada di fuoco. No, ma la spada di fuoco, spada? Senso... La si può attaccare sulla politica, non sulla bellezza, occhi da cerbiatto. Ma che chi se ne frega degli occhi che ha? Santo. È una polemica Gianluca inutile. Da Venezia, una polemica inutile. Dopo quello che ha detto qua, Zaia, uno in Veneto, vabbè, lasciamo perdere. Sono, dicono che faccio cosa campagna elettorale. No, ma dicono che faccio. Qualcuno mi dice, tu fai campagna elettorale per la Lega. No, e me ne. Primo, non voto in Veneto. Secondo, non me ne fotte un cazzo di chi vince in Veneto. Nulla, zero. Gianluca da Venezia. Buonasera, Cruzani. Dimmi. Ti anticipo che ho stima nei tuoi confronti e spesso mi trovo anche a condividere le tue posizioni. Però a volte, Cruzani, dimostri una rigidità e delle posizioni come quella sui centri sociali, dove dici delle cose senza sapere, perché il centro sociale, te lo dico perché l'ho frequentato. Scusa, non ho capito, tu se ti vengono a occupare casa tua, ti incazzi o no? Ma certo, ma questo no, ma cosa c'entra? Se vengono a occupare, ma è un principio molto semplice. C'entra? Non si occupano posti sono che sono fabbriche dismesse, ma poi sono fabbriche dismesse che loro mettono a posto sociale. Alle volte funzione sociale, beh, si organizzano corsi. Alcuni sì, alle volte. No, alcuni sì, ti dico, io ti dico, sono una persona molto equilibrata, non sono un estremista, ma nei centri sociali come quello di Venezia si organizzano corsi di lingua, ragazzi, paghino, esatto. Gianluca, oppure quando si tratta di associazioni che hanno delle convenzioni col comune, ci sono associazioni che hanno convenzioni col comune per fare i corsi. Infatti, eccetera, alle volte eccetera. Benissimo, così. È ottimo, tutto stupendo. Il comune cede degli spazi. Aspetta, Gianluca, il comune cede degli spazi per fare dei corsi, va benissimo, tranquillamente. Ci sono delle convenzioni. A Milano con Leon Cavallo è successo così. Io non sto parlando di Leon Cavallo, sto parlando di altre cose. Leon Cavallo è un esempio pratico che è successo così. Io sto parlando di altre cose. Io sto dicendo che se il comune di Milano, che tratta un comune di sinistra, decide di sgomberare dei centri sociali, va bene, quello... dei centri sociali dove evidentemente c'erano bivacchi e non c'è nessuna attività di tipo sociale, posto che uno possa identificare delle attività come sociali, sì. Io credo che insomma ci siano delle ragioni molto, molto. Ho detto, distinguiamo. Ma no, ma è l'unico discorso. Ma certe volte tu parti da certe azioni. Sì. Io sono contro l'occupazione di suolo pubblico. Io sono contro l'occupazione di suolo pubblico. Posso dirlo o no? Caso a caso. Centri sociali sono tutti. Ma io non ho detto questo, io ho detto semplicemente. Io ho detto che in alcuni casi la festa è finita. Grazie. Oh, ben ritrovato alla Zanzara, Massimo Cacciari, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera professore. Ah, bene. Allora, le chiedo una cosa, oggi forse lei non ha avuto modo di sentire quello che è successo. In un'intervista al Corriere della Sera, il prossimo probabile candidato alla presidenza della Regione Veneto, che si chiama Alessandra Moretti, esatto, ha parlato di bellezza femminile e vabbè, dicendo che lei va dall'estetista perché deve rappresentare le donne al meglio, eccetera. E vabbè, questo fa parte, come dire. Però tutte le donne che possono vanno dall'estetista. Appunto. Sì, anche questo è vero. Sì, cioè, lei dice non c'è bisogno di specificarlo, no. Dice lei. Sì, non nessun bisogno di specificarlo. È un comportamento che... assolutamente normale delle donne che hanno una lira, insomma, che le avanzano lì. Esatto, quelli che possono vanno a curarsi, come dire. Però ha detto, passato, facendo l'esempio della Bindi, le donne di sinistra hanno mortificato la bellezza. Ora... Ma dove? Io ho visto tra le donne più belle che ho incontrato in vita mia, erano delle appassionate politiche, la Rossanda, la Castellina. Sì, che certamente che non dice? La Castellina è molto bella. È giovane, non conosce il passato, non conosce la storia di questo paese, e che vuole fare? Ma soprattutto c'è l'idea. Che io per carità sono anche all'opposto delle idee della Bindi in alcuni casi, ma mi tocca difenderla a spada tratta in questo caso, perché si può dire che paradossalmente non è stata aiutata certamente dall'aspetto fisico per fare il politico, no? Cioè la Bindi guardi, una volta era del tutto indifferente l'aspetto fisico, del tutto indifferente, cioè non toglie che ci fossero state tra le donne veramente più belle che abbia incontrato in vita mia, oltre che tra le più intelligenti ovviamente, come la Castellina, come la Rossanda, ma tante altre. Quindi ha detto una sciocchezza, va bene, insomma, si può perdonare, sono giovani. Sono giovani, si devono fare, dice lei. Però quando uno si auto attribuisce tre qualità, perché in questa intervista poi magari le faccio sentire qualche passaggio, uno si dice io sono bella, brava e anche, che ha detto, anche intelligente. Sì, no, ma bella, siccome l'hanno attaccata per beata questo. Lei, beata lei. Ma dai, l'hanno attaccata, ma chi l'attacca? No, è in televisione dalla mattina alla sera, va contestualizzata, perché lei dice, rispetto anche all'episodio della Madia, episodio vergognoso pubblicato su un giornale di gossip, viene presa una ministra in macchina che mangia un gelato, ma da quello parte, non c'entra niente la bellezza, però in quel parte caso anche da quello, dice una bella ministra la Madia, e quindi, ma lei che vota in Veneto, lei vota in Veneto, Cacciari? Sì. Ma la Moretti la voterà? Certamente, se sarà il candidato del Partito Democratico, del centro-sinistra, la voterò, come ho sempre votato a sinistra. Cosa vuole farci? Col naso un po' tappato. Cosa vuoi che voti? Zaia? Col naso un po' tappato magari la voto. Ma il naso tappato, la politica è tutta un gioco di relatività, sa? Non sono mica le idee platoniche, non è mica il motore immobile di Aristotele. È il campo della politica, diceva Aristotele, per lo più. Quindi per lo più preferisco la Moretti a Zaia, per lo più, no? Per lo più. Allora, un attimo solo che ci fermiamo, poi continuiamo, abbiamo altre cose da dire con Massimo Cacciari, che è tornato qui alla Zanzara. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La Zanzara. Allora, risentiamo il Moretti pensiero, va, una sintesi del Moretti pensiero sulla bellezza femminile, sulla Bindi che ha mortificato la bellezza secondo la Moretti. Bellezza non è affatto incompatibile con l'intelligenza. Questa è la risposta alla Bindi. Sai, Rosy Bindi ha avuto il suo stile, diciamo che il nostro non sia diverso, ma per fortuna che è diverso, è cambiato il mondo, è cambiata la politica, non possiamo avere lo stesso stile delle donne. Che stile era quello? No, uno stile più austero, uno stile più rigido, uno stile anche che mortificava in qualche caso la bellezza, la capacità invece di mostrare un volto piacente. Perché uno si deve mortificare? Perché io mi devo mettere, non so, gli occhiali da sole? Ho deciso per esempio di andare dall'estetista ogni settimana. Cosa faccio dall'estetista? Qualsiasi cosa, mi prendo cura di me, mi faccio le mesh, mi faccio la tinta, poi non entriamo in altri particolari, vado a correre, accompagno i miei figli di corsa la mattina, loro in bici, io di corsa. Su questa cosa la massacreranno sui social, no? Ma chi se ne frega, mi potranno criticare, perché cosa devo avvenire con i peli, i capelli bianchi? Perché io che ho un ruolo pubblico, che rappresento rappresento tante persone e tante donne, voglio rappresentarle al meglio. Marianna è una ministra brava, intelligente e bella, oltre che elegante. Marianna Boschi è brava, intelligente e bella, è una delle ministre più fotografate, ma giustamente, perché ha una sua eleganza, un suo stile e lo rivendica, perché il nostro stile di fare politica è uno stile ladylike, cioè uno stile che deve piacere. Ecco, gliel'ho fatto ascoltare, professor Cacciari. Vorrei un ulteriore commento, perché è vero che, per carità, bisogna rivendicare la bellezza, però in un periodo, adesso non voglio fare il populista, però in un periodo così un po' strano, un po' bizzarro, il fatto di rivendicare di andare dall'estetista ogni settimana. Ah, risposta a una domanda, dai. Professor Cacciari. No, vabbè, cosa vuole? Sono un po' imbarazzato, insomma, incominciamo col dire che questa visione delle politiche di una volta è risibile, perché le ripeto, tutte si truccavano, tutte se potevano andavano dall'estetista, eccetera. L'esibizione di queste cose, che di per sé sono abbastanza scontate, insomma, mettersi bene, tenersi un po' da cura, avere rispetto e tenersi anche al proprio aspetto esteriore, con la scoperta dell'acqua calda, insomma, lo raccomandava perfino Platone. Lady like, la politica è lady like. Ma che cazzo vuol dire? Il modo in cui queste cose si dicono che è berlusconismo puro, capisce? È il modo in cui si dicono che purtroppo l'amica Moretti dovrebbe capire che appare berlusconismo puro, perché questa cosa, questo insistere sulla cura del corpo, questo insistere sul voler apparire piacevoli, eccetera, eccetera, è quello che ha portato quel tipo a dipingersi i capelli sul cranio e a farsi 10.000 tiraggi di faccia in 10 anni, no? Dietro c'è qualcosa, secondo lei, oppure c'è il nulla? Perché c'è una cultura che ormai non è più cultura, c'è una politica che ormai è allo sbracco, ma cosa vuole, dargli la colpa alla Moretti? No, ma dietro la Moretti c'è qualcosa o no? Ma c'è questo ventennio sciagurato, cioè, in cui si è perso il gusto, si è perso proprio il gusto di ciò che è veramente bello, no? Che non è certamente farsi le mesh, andare dall'estetista. E l'estetista è anche la ceretta. Quindi c'è un crollo culturale, estetico culturale, etico estetico culturale, quello che ha creato questo paese. C'è un'altra cosa in tutte le sue dimensioni. C'è un'altra cosa. Adesso poi chiudiamo sulla Moretti, sennò sembra facciamo un seminario sulla Moretti. No, non stiamo parlando della Moretti. No, La Moretti come sintomo. Ecco, la Moretti che è passata così velocemente dal Parlamento italiano al Parlamento europeo e poi adesso candidata in Veneto. Mi sembra un po' troppo. Guardi, la Moretti è sicuramente tra le queste giovani rampanti renziane, e dall'intervista si capisce quanto siano rampanti. È una che comunque ha fatto esperienze amministrative, ha fatto qualcosa anche prima di Renzi, sa. Veltroni ha nominato, non ricordo più chi, in giro per il mondo, quando è stato lui segretario del Partito Democratico a Verona, altrove, che nessuno aveva mai visto e mai conosciuto. Cioè, Caleano è vecchia questa prassi di nominare la gente, gli amici, le amiche in giro per il mondo, al di là di ogni competenza, al di là di ogni carriera, eccetera eccetera, è vecchio ed è mica di Renzi, era di Bersani prima, era di D'Alema, era di Veltroni, lei non sorprende il fatto che era di tutti costoro che volevano intorno yes man. Cosa ce la prendiamo? Anche la Moretti un po' yes man è, diciamo la ma verità. Insomma, la Moretti comunque ha fatto esperienza amministrativa a Verona, si è fatta il sedere la Moretti, insomma, vice sindaco è stata con il mio amico Variati, insomma, a Vicenza. Ha condotto delle battaglie molto serie, molto impegnative. Quindi la Moretti sicuramente di tutte queste renzine è secondo me quella più attrezzata. Le renzine, come le giudica lei, le renzine? Un po' delle... L'immagine l'ha data, ahimè, la Moretti con questa orribile intervista. Le renzine. Senta, a proposito di un leader emergente, no? La sorprende il successo travolgente, sembra, poi di le Salvini, cose possono cambiare, di Salvini? Non mi stupisce affatto, ma perché dovrebbe stupire? Bisogna non sapere nulla, capisci? Una delle cose, sciagure del centro-sinistra in questo paese è stato non comprendere nulla del nord. Era scontatissimo. Cioè, il crollo del centro-destra, il crollo di Berlusconi, i voti dove volete, dove volete volete che andassero. In parte vanno Renzi, in parte vanno Salvini, no? Secondo te è di stupefacente. No, tra l'altro oggi ho avuto un'indiscrezione che ho avuto, è che addirittura Mediaset vuole mettere negli ultimi giorni la mordacchia alle presenze di che Salvini. Che non è vero, peraltro, perché vabbè, adesso vedremo. Mi ha scritto un amico delle Iene, dice, venerdì era in onda, vabbè, Salvini sulle Iene. Sì, va bene, le Iene è registrato. Però venerdì, nei talk, quindi, nei talk, siccome, come dice lei, prende voti a Forza Italia, qualcuno si è spaventato, mandiamolo meno in televisione. Ma perché dovrebbe spaventarsi? Non vedi che Berlusconi non si spaventa più di nessuno? Appunto. Non si spaventa di perdere voti, né nei confronti di Renzi, né nei confronti di Salvini. Gli ormai basta. Berlusconi, che sta dimostrando da vecchio di essere anche una persona intelligente, ha capito addirittura che uno che non ha più nessuna prospettiva personale, sì, ha capito di non avere eredi. Sì. E a quel punto va un po' per simpatie, come succede poi alle persone anziane, no? Va un po' per simpatie. Cioè Renzi. Ed è in una assoluta simpatia con Renzi. Innamoramento, direi quasi. È evidente, è una situazione di innamoramento. Ricotta, sì. È l'erede che avrebbe voluto, è la persona che avrebbe forse voluto anche il figlio. È il figlio che gli è mancato in politica, e perché deve essere, e neanche Salvini gli è antipatico, come non gli era antipatico Bossi. Salvini da tanti punti di vista è un po' un Bossi prima maniera, no? Sì, senza le secessioni. Ma Salvini deve far paura, per esempio, a uno come lei, che è lontano mille miglia dalla cultura di Salvini, questa alleanza con l'estrema destra, è uno che deve far paura all'Italia oppure no? Ma no, una posizione di destra è inevitabile ci sia in una situazione come questa. In Italia, come c'è in Francia. In Francia è molto più pericolosa. La Le Pen in Francia potrebbe veramente arrivare a vincere. Salvini non arriverà mai a vincere. Ah, mai? Secondo lei mai? No, mai, mai poi mai. Perché c'è il Sud, eccetera. Perché ci sono tante cose, perché è una forza politica, a differenza di Le Pen, a differenza del partito di Le Pen, non nazionale ma radicata soltanto in alcune regioni, e perché poi Salvini non potrà mai apparire come statista, a differenza della figlia di Le Pen, che lo può. Quindi sono situazioni completamente diverse. Il pericolo è in Francia da questo punto di vista, non in Italia. Io ho l'impressione che Renzi stia attraversando un momento di grandissima difficoltà, ovviamente non è solo la mia impressione. Cioè, un po' credo, lo sta attraversando il paese, il pantano, cioè che sia il consiglio di un paese in semi catastrofe stia bene. No, però a parte che lui è sempre sorridente, per cui non è vero che lui diciamo da questo punto di vista come anche Berlusconi, come Berlusconi. Però si sia messo un po' a fare quello un po' si sia un po' impantanato nelle trattative, dalla legge elettorale fino a questa roba sul lavoro. Ancora per il momento poco, insomma, ancora poco. Per il momento in modo sostenibile e tollerabile per il suo elettorato, insomma, per l'elettorato di centrosinistra. Il pericolo lì passa se dovesse tirare troppo la corda e come gestire un'eventuale scissione. Allora sì, come la gestisce, perché se tira troppo la corda quasi costringe qualcuno ad andarsene, e a quel punto nel breve periodo potrebbe essere un qualche trauma, ma al momento non ce ne sono le carte, perché l'opposizione interna è una posizione talmente debole. Anche Landini è debole, anche Landini non lo vede come leader di uno. Ma come, non è neanche il sindacato, cioè una parte del sindacato, cosa vuole che possa fare? Cioè, io tutta la simpatia che posso avere per gli operai, per chi cerca in qualche modo anche di rappresentarli, no? Anche contro queste palle, queste ideologie di viva il precariato, di viva la mobilità, di persone che dimenticano che in Italia bene o male ci sono 12 milioni di persone a reddito come lavoro a tempo indeterminato, no? Non una, e che quindi hanno anche loro qualche problema di tirare avanti, di avere lo stipendio alla fine del mese, di mantenere l'occupazione, eccetera, eccetera. Quindi per quanto capisca quanto di ideologia c'è in certe posizioni di Renzi, è chiaro che non può essere da un vecchio sindacalismo come quello rappresentato da Landini che può venire il problema per lui, insomma. Senta, Parenzo, vogliamo volare alto sulla cosa di Veronesi un po'? Cioè, io vorrei capire dal professor Cacciari, la cosa curiosa, al di là delle beghe politiche, la sortita di Veronesi. Veronesi. La cosa di Veronesi cancro. Che ha detto che Dio non esiste perché lui ha visto, no, il cancro. Diciamo, Veronesi è una persona troppo, troppo stimabile per tutto quello che ha fatto, per polemizzare con lui su una assoluta idiozia come quella che ha tirato fuori. C'è un'idiozia totale. È uscita, dai, è scappata. Un'idiozia totale che non vale neanche la pena commentare. Cioè, lui dice: siccome ho visto il cancro nei bambini a Auschwitz, e allora. Ma lasciamo stare, dai, perché. Effettivamente, sono stupidaggini da scientismo, proprio da catto, da bottega, peggio ancora di quello di Odifreddi, ma per carità. Peggio di Odifreddi addirittura. Peggio di Odifreddi. Beh, certamente io pure non me l'aspettavo al professor Veronesi, perché è una persona intelligente. Come si può dire che la prova dell'inesistenza di che Dio non esiste è il cancro dei bambini? Cioè, il cancro dei bambini. No, è una provocazione, forse. Ma che provocazione? Non è mica uomo da provocazioni, Veronesi. No, ma magari. Non è mica si mette là a provocare. Non lo so, capisci? È la grande domanda di Dostoevskij, la grande domanda dei fratelli Karamazov, ridotta in battuta da bar dello sport. E non è possibile, non è possibile. Ma è una situazione del paese in cui ormai la chiacchiera dilaga. Pure Veronesi si è messo a fare chiacchiere, dice. Guardi, quando un paese è così messo male. Non è che si è rincoglionito Veronesi, no? Come il nostro, in Veronesi possono essere anche questioni di età, ma insomma, quando un paese è così malmesso come il nostro, non ci salva nessuno. Tutti sbroccano. È la Turco che piange perché non la gente non si iscrive più a quello era sincero. Non si salva nessuno. Professore, grazie, buona serata. Grazie. Buona serata a voi, arrivederci. Siamo ad alti livelli qua, eh? La Zanzara. Ogni tanto anche Dostoevskij fa capolino alla Zanzara, Parenzo. Sarai contento, no? Sarai contento? Beh, sì. Sei contento? Dai, hai avuto un attimo di soddisfazione. Dopo parole un po', come dire, zanzaresche, intemerate, discussioni accese sugli animalisti, è spuntato anche Dostoevskij di Cacciari. Emanuele da Bari. Pronto? Sì. Sì, buonasera. Dimmi. Sono un cacciatore pentito. Nel senso che prima sparavo agli animali, quando mi sono trovato faccia a faccia non ho più avuto il coraggio di farlo. E comunque ai cacciatori non auguro la morte, presidente di regione o l'ultimo mortale, ci mancherebbe. Perché la morte è una soluzione, io auguro uno sfregio permanente. Che vuol dire sfregio permanente, scusi? Perché la morte è una soluzione, la sofferenza è una punizione. Cioè lei dice dovrebbero soffrire? Esatto, sì. I cacciatori dovrebbero soffrire. E lei era ex cacciatore. È un ex cacciatore. Ha visto la luce come quell'altro, ha visto la luce. Sì. Ed è diventato, come dire, un fustigatore dei cacciatori, pensi un po'. Io vado a sparare, però sparo al piattello, sparo al bersaglio, continuo a sparare. Ma gli animali non riesco più, da che mi sono visto quel capretto faccia a faccia, non ho più. Questo è legittimo. Mi sono pentito, confesso. Si è pentito, però augura la sofferenza agli altri. Bello, un bel pentimento, Emanuele. Giuseppe d'Arezzo. Giuseppe d'Arezzo. Sì, pronto, Frusciani. Ascolti, Frusciani, buonasera. Dimmi. Io è mezz'ora che sono qui fuori nel terrazzino di casa mia perché in casa il telefono prende male e mi sono un po' rotto. Comunque, a parte questo, volevo denunciare la tristezza che sta prendendo questa trasmissione. Guarda, una cosa, io ero un fedelissimo, ma sono perso a questa parte. Lei no? È talmente infedele che adesso sta addirittura mezz'ora fuori dal balconcino, sì, con la linea. Perché gli volevo dire che lei sta diventando una persona spregevole. Sì. Perché non capire che quello che denuncia lì, quello, il coso dei calciatori, che ha detto delle cose inenarrabili. Vabbè, è finita la batteria sul terrazzino? Traffico, dai, traffico. C'è il traffico, il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, traffico. No. No. La Zanzara. Sei ancora a casa, Emo? Ottima trasmissione, sempre la migliore. Oh, Lo sai che cosa disse Beppe Grillo da Mentana nel marzo scorso, caro Parenzo? Poi magari cose. Troveremo anche l'audio, eh. No, disse una cosa molto semplice: il mio 730 è a zero da 4 anni, sono l'unico che fa politica e ci ha rimesso dei soldi. Questo disse Beppe Grillo da Mentana nel marzo scorso. Allora, si è scoperto che nel 2013 il reddito complessivo di Grillo è di 147.531 euro, che al netto delle imposte, che al netto delle imposte fanno 91.511 euro l'anno, 7.500 euro al mese. Questo nel 2013, lui disse nel marzo scorso: il mio 730 è a zero da 4 anni, sono l'unico che fa politica e ci ha rimesso dei soldi. Ma perché uno ha bisogno di dire una cosa del genere? Io non difenderò mai Grillo, quindi, ma in questo caso è evidente che rispetto alla sua vita precedente. No, ma lui ha detto che ha reddito zero. È diverso. No, ma cosa. Dico, quando lui faceva l'attore. Sì, probabilmente reddito zero, nel senso che non ha guadagnato molto. Non lo so, invece non ho guadagnato molto. 90. Uno deve dire, ho guadagnato due meno. Spettacoli, uno potrebbe dire, saranno i due spettacoli che ha fatto. No, nel 2013. Il reddito 2013 si riferisce si a. Si riferisce all'attività capito, sua uno... del 2012. No, vabbè, dipende se è 2000. Vabbè, comunque quello fiscale del 2000. Sì, ma quello che è. E lui ha detto che da diversi anni era a reddito zero. Sì, ma probabilmente c'ha i diritti. No, ma io su questo non contesto, perché non mi è molto simpatico, come si sa, Grillo. Ma non è che bisogna contestare, non contesto nulla. No, ma su questo probabilmente lui si riferiva non, diciamo, ai 147 che ovviamente ha dichiarato. Lì dentro ci saranno che cosa? I diritti di diverse cose che lui ha fatto, che prende su vecchi DVD o magari su diverse cose, libri che ha scritto. Cioè, forse questo ammontare si riferisce proprio ai redditi che ha percepito grazie a tutte le robe che ha fatto nella sua vita di attore in passato, questo sai. Io poi adesso vi facciamo ascoltare Grillo, qualcosa di incredibile. Vi facciamo ascoltare qualcosa di incredibile. Allora, i consiglieri comunali di Milano, dovrebbero conoscere la storia di Milano, no? Caro Parenzo, la dovrebbero conoscere bene lì. Beh, sì, sarebbe auspicabile, diciamo. Ecco, le cose base proprio, le cose fondamentali. Allora, il mitologico Andrew Mercou è andato al Consiglio Comunale di Milano e ha sentito su alcune domande fondamentali che uno non può non sapere se fa il consigliere comunale di Milano diversi esponenti, maggioranza e opposizione del Consiglio Comunale di Milano. E ne è uscito un quadro impressionante. Vi mando in onda queste cose qui, perché, ripeto, consiglieri comunali di Milano, alcuni anche da diversi anni, anche conosciuti, i quali di fronte a delle domande semplici che uno dovrebbe sapere se fa il consigliere comunale a Milano, alcune non le so manco io, magari sbaglio anch'io, per carità. Allora, iniziamo con Riccardo Decorato, lo conosciamo tutti, credo che sia Fratelli d'Italia. È stato tantissimi anni sia al Senato, vice sindaco, quando governava la destra a Milano, eccetera. Allora, Sant'Ambrogio, in che anni visse il patrono di Milano, Sant'Ambrogio? Quando visse Sant'Ambrogio? Quando visse? Agli inizi del millennio, 1002. Amico mio, Decorato, Sant'Ambrogio, quarto secolo, 1200. Vabbè, Delisi, Partito Democratico, mi sembra che si chiami Raffaele, no, non mi ricordo, comunque Delisi, Partito Democratico. L'ultima cena, dov'è l'ultima cena? Tu lo sai dov'è l'ultima cena? Ma certo, al Cenacolo Vinciano sono anche stato. Dove esattamente? Come si chiama la chiesa? Ah no, come si chiama la chiesa? Non me lo ricordo. Santa Maria delle Grazie, no? Santa Maria delle Grazie, sì, amico mio, dai. Santa Maria delle Grazie. Vabbè, ma oddio, noi possiamo anche essere ignoranti. No, ma al Cenacolo Vinciano io a parte che ci sono stato. Senti il signor Delisi, anni fa fece. Delisi, Partito Democratico, senti. L'ultima cena, dove si trova quest'opera? Come si chiama la chiesa? Santa Maria Annunziata. Le cinque giornate di Milano, quando si svolsero e chi combatté contro chi? Noi combattemmo contro gli austriaci, 1700. No, 1800. Mi ricordo esatto. 1700. Non me lo ricordo. Amico mio, Santa Maria Annunziata, e non si ricorda le... È vero che noi contro gli austriaci, cioè milanesi contro gli austriaci, fin qui ci siamo. Però 1700, 5 giornate di Milano. No, 1800. Ma certo, sì, 1700 ha detto lui. Guarda che incredibile, eh. Sentiamo un altro del Partito Democratico che si chiama Giungi, Alessandro Giungi, senti. Sant'Ambrogio. Quando visse? E visse intorno all'anno 1000, mi pare, può essere. Chi dipinse l'ultima cena? No, vabbè, ma dai, queste qui sono tutte domande. Ma sono facili. Legate. No, sì, sono facili. Quando circa venne dipinta? E dai, più o meno 300. Le cinque giornate di Milano, chi combatté contro chi e quando si svolsero? No, combatterono i milanesi, diciamo, in rivolta contro gli austriaci nel 700, poi 1000. No, aspetta, su questo sono carente, sulla data delle... sulla... Ragazzi, però adesso io voglio dire, fai il consigliere comunale a Milano, non dico che devi sapere quando, che cos'era, che ne so, dove sono andato l'altra volta con mia figlia, non mi ricordo, un monumento a Milano, adesso poi mi verrà in mente, c'ho l'arteriosclerosi, non mi ricordo più, c'ho l'Alzheimer galoppante, quella, vabbè, adesso, non devi sapere i dettagli delle cose particolari, ma... Quando sono state le cinque giornate? Il secolo delle cinque giornate, amico mio. Allora, c'è un tizio che si chiama Grassi, che è di una Francesco Maria, se non sbaglio, di valori, insomma, della maggioranza, sempre su Sant'Ambrogio, senti. Quando visse Sant'Ambrogio? 1000, adesso. Parenzo, ti stupisci o no? Io un po' mi stupisco, lo sai? Mi stupisco, pensavo che... Beh, sì, un po' sì, poi effettivamente... Però vale su tutte le città italiane, probabilmente, non soltanto su Milano. Cioè, se si fa la stessa cosa a Roma, sì, probabilmente... Allora, Igor Iezzi, Lega Nord. Signor della Liga. Questo è abbastanza clamoroso. Beh, lui saprà sicuro, cinque giorni, che tutta questa, no? Dici? Tutta questa... Dici. Sì, dovrebbe saperlo. Mistica, dovrebbe mistica saperlo. Sì, sui sì, Lombard. Bravo, sì, dovrebbe saperlo. Sulla Padania, lo sa sicuro. Ultima cosa, le cinque giornate di Milano, quando si svolsero e chi combatté contro chi? Allora, si svolsero contro il Barbarossa. Il Barbarossa? Barbarossa, diciamo, forse lui ha visto il film, il Barbarossa, quello con Bossi. È rimasto attaccato al Barbarossa. È rimasto attaccato al film del grande signor Renzo Martinelli. Però Barbarossa è un'altra robetta, il Barbarossa. Amico Iezzi, Mazzali è Mirko Mazzali, Sel, senti sui cinque giorni di Milano. Il patrono di Milano, in che periodo visse? 1100, credo. Le cinque giornate di Milano, invece, chi combatté contro chi? C'entravano i croati, perché nacque da una questione dei croati. L'origine, questa la so perché l'ho studiato storia, l'origine fu una protesta dei croati, ci fu il divieto di fumare, i croati per provocazione si accesero i sigari e da lì nacque queste come cinque giornate di Milano. C'erano sicuramente gli austriaci. E quando? Cinque giornate di Milano. Un suggerimento. No, non lo so sinceramente. Guardate che è incredibile. Andiamo a Vagliati, Forza Italia. Signor Vagliati, Forza Italia, l'ultima cena. Dov'è l'ultima cena secondo te? Lo sai, no? Abbiamo detto prima, no? Santa Maria della Grazia. Santa Maria della Grazia. Sì, senti che dice signor Vagliati. La cena. Dove si trova quest'opera? Questa opera in Calabria. In Calabria, amico mio. Ce ne sono un altro paio. Che poi non si può neanche staccare, diciamo. No, ma io pensavo che qualcuno, quando me l'ha detto, no, Andro, uno può anche quando dire, Andro me l'ha detto, io pensavo scherzasse. Cioè, in Calabria, io pensavo, no, vabbè, ma il fatto ha fatto che non si battuta, può staccare, dai. Che non è la Gioconda che invece sta a Parigi, che uno dice un quadro che lo presta e lo porta in giro. No, sì. Il Cenacolo non si può staccare perché è sul pazzesca, muro, diciamo. Dai. Ce n'è un altro paio dopo, Consiglieri comunali a Milano, studiate! Prendo atto che ormai è tutto finito. La Zanzara. Sei una fava, te e tutto quello staff di merda, la radio schifosa marcia delle zanzare morte. La faccio più, non vi sopporto, è un programma brutto, è brutto. Jumping, what's that sound? Here she comes, go blasting top down. Hot shoe, burning down the avenue. Model citizen, minoranza, tra virgolette, ovviamente, di alcuni, non tutti, consiglieri comunali di Milano, i quali non sanno i fondamentali della storia milanese. Andro Mercù ha fatto una straordinaria puntata al Consiglio Comunale, ha preso, catturato alcune voci. Quelle più grosse, per te quali sono? Non ho capito, David. Beh, no, il leghista sul Barbarossa è interessante, perché loro appunto su quello avevano costruito. Qualcuno mi dice anche mitologia. L'ultima cena in Calabria, questo Pagliati. L'ultima forse... cena in Calabria, che forse ha confuso con i bronzi. Forse pensava si parlasse dei bronzi, non lo so, di Riace. Allora, non c'è ho un'altra idea, di Selle che si chiama Quartieri, Patrizia Quartieri. Quando visse Sant'Ambrogio, sentite. Sant'Ambrogio. Quando visse. No, non mi ricordo. L'ultima cena, dove si trova quest'opera? Si trova al Corso Magenta, al. Ho il vuoto in questo momento. Corso Magenta cosa? Cosa Corso Magenta? Cosa c'è a Corso Magenta? Sant'Ambrogio mica... Sarà un ristorante? No, Santa Maria delle Grazie diceva, ah sì, sì. No, perché c'è un bar che si chiama il Sant'Ambrogio, effettivamente, che è anche famoso. Pagliuca, Forza Italia, Pagliuca, Forza Italia. In che periodo venne dipinto questo, quest'ultima cena? Non lo ricordo assolutamente, davvero non me lo ricordo. Le cinque giornate di Milano, se le ricorda? Mi piace. Non se le ricordo. Non abbiamo detto niente su Marino, il sindaco di Roma, che paga le multe alla fine. Ha detto: non dovevo pagare, ma ho voluto pagare. Non dovevo. Allora io dico una cosa: lui non doveva pagare. Se c'è un regolamento comunale, a parte le cose tecniche che ha spiegato, eccetera, che sono state più volte smentite, non doveva pagare. Se c'è un regolamento comunale che prevede il fatto che il sindaco non ha bisogno nemmeno di un permesso, cosa che per me dovrebbe essere, perché un sindaco non dovrebbe nemmeno avere il permesso della ZTL, cioè se ha una macchina, questa macchina deve entrare, poi se viene preso dalle telecamere si annulla automaticamente la multa perché è il sindaco. Questo secondo me, ma se tu non lo prevedi in un regolamento, siccome sono afflitti da demagogia e non lo vogliono fare, a quel punto sei sottoposto alle telecamere, devi chiedere un permesso. Se tu non riesci a gestire il tuo unico permesso di ZTL, beh, quello è però colpa tua, amico mio, Marino. Non dovevo pagare, ma ho voluto pagare per non creare un conflitto tra sindaco e amministrazione e per eliminare qualsiasi residuo dubbio sulla regolarità di quanto accaduto. Ho pagato le multe anche se non ero tenuto a farlo. E se errori ci sono stati da parte dell'amministrazione, di questi errori io sono la vittima, la sola vittima, esposta a multe che non avrei dovuto ricevere. Ma un sindaco non può essere vittima dell'amministrazione che guida. Ho detto agli uffici che pur mi comunicavano che non ero tenuto a farlo, che volevo pagarle quelle multe. Mi sono state indicate le somme e ho pagato la settimana passata. In questa settimana di morbosa attenzione, la mia auto è stata anche fotografata in divieto di sosta. E allora? E se è stata fotografata in divieto di sosta, qual è il punto? Persino fotografate in divieto di sosta. E allora non ho capito, sei in divieto di sosta? Cioè, lui dice che poi è sbagliato, dovevano fargli la multa, ma non, i vigili non sono passati. Vabbè. Roberto da Milano, dai. Allora, io vorrei capire se abbiamo ascoltato l'intervista di Alba Parietti o della Moretti, perché se è Alba Parietti, a me fa piacere che sia una gran bella figona che si va a fare le unghie e qualunque altra cosa dall'estetista, ma se abbiamo parlato di un politico, io vorrei che questo si traducesse non in un'intervista vado dall'estetista, che problema c'è se sono piacente, no, ho fatto questo è il mio modello di società. Ma gliel'hanno chiesto. ha risposto a una domanda. Dai, su, dai. Come le facciamo noi? Ormai è così, cioè, ma giustamente. Che si è fatto dire dalla Madia, noi vogliamo un giornalismo di rinnovamento. E questa invece è la classe politica che, scusate, io non vedo tanto di berlusconiana. Ma scusi, scusi un attimo, se noi giornalisti facciamo delle domande, e giustamente le facciamo ormai anche su questo, una volta sarebbe stato impensabile chiedere, che so io, a Nilde Iotti com'erano i suoi rapporti con il migliore, alias Palmiro Togliatti. Perché era un perché non era così il giornalismo, erano altri tempi. Sarebbe stato impossibile chiedere alla signora Rossanda o a... cioè, da un esponente politico. Ma se uno si indigna, ma lascialo indignare, no? Ma facciamo, siamo i primi noi a fare queste domande, di chi ci indigniamo? Scusa, le facessi, magari le avessi fatto io. Ma facciamo anche noi in continuazione, certo, ma scusami, non c'è da indignarsi. È ipocrita indignarsi. Bisogna dimostrare che queste persone, questa classe politica, stanno facendo molto poco. Vabbè, ma questo si può dire certamente, ma questo va bene, ma questo è un'altra critica. 230.000 preferenze si devono tradurre in un lavoro per la comunità italiana. Vabbè, ma questo, si dirà alle persone che l'hanno votata, no? Questo... No, per tutti, perché se hanno votato tutti è stata eletta lei, quindi lei deve fare gli interessi anche di quelli che non l'hanno votata, magari non del suo stesso disegno politico, però deve fare il bene del popolo. Ma questo non c'entra con l'intervista. Quella la Moretti ha risposto a domande che giustamente un giornalista, due giornalisti del Corriere.it le hanno fatto. Ma io non ti sto dicendo. Ma le facciamo noi per prime queste domande? Di che cosa ci si stupisce? Infatti ci stiamo parlando delle risposte, non delle domande. Che c'è? Allora, le risposte che lei ha dato sono in linea con le domande che uno gli ha fatto. Ma cosa c'entra? Mo' la colpa è di quello che gli ha fatto le domande. Ma tutt'altro, ma dico, non capisco perché il contenuto così rivoluzionario quale sarebbe, così avversivo, così... di me stessa perché è piacente, ma che cavolo vuol dire? Ma vogliamo capire che disegno politico, che società ha in testa questa Moretti, cosa vuole fare? Beh, per questo lo dirà lei, lo ha detto, lo ha fatto, quei 200.000 che l'hanno votata l'avranno votata per questo, no? Ma io ho visto un sacco di politici prendere molte più preferenze di lei per molti più anni, eppure non aver fatto assolutamente niente, ma non avevano la faccia tosta di dire adesso abbiamo una nuova immagine, non capisco perché dovrei vergognarmene. Lady Lai, può essere solo un di più se sei grandemente buona. Dal punto di vista politico non ce ne frega nulla. Grazie. Ma il Lady Lai, aspetta, Pino da Roma. Ma riuscita forse, ma neanche. Ciao Giuseppe, io però non posso bloccare tutto Corso Francia perché devo sentire questa imbecillità. Allora, Parenzo, che c'entra Corso Francia? Bene, guarda, voglio tanto bene, tu poi sei da Lazio come me, quindi. Vabbè, quello non c'entra una mazza. Io voglio tanto bene, ma ha perso un'occasione per stare zitto. Che cavolo dice di Nilde Iotti? Ma come fa? Ma non ho perso nessuna occasione. Lo dica la madre dei fratelli Cervi! Ma a me lo dice dei fratelli Cervi. Ma è ovvio, erano altre epoche. Ma ha ragione, ma siccome ha ragione. Ma non lasci parlare, se no si sovrappongono le voci. Dai, ma appena ha Pino, parlato, si sovrappongono le voci. Dimmi, Pino, dai. Ma non si può esprimere in questo modo. È puro autolesionismo nei suoi confronti. Si rendi conto che cosa ha detto? Una cosa fuori di ogni mondo, fuori di ogni regola. Io non so se si riascolta e dovrà spiare e andare a Assisi 30 volte a piedi. Ma vi rendete conto? Questa è la classe politica. Ma perché sei indignato? Tu sei uomo di sinistra? Sì, certo. Sì, certo. Ci ho creduto fino in fondo, sempre. E la Moretti che ti è sembrata allora? No, lascia, c'ho pure, guarda, c'ho 4 punti sulla fronte perché mi sono beccato una manganellata a Piazza Cavour. Non mi sono neanche fatto riconoscere perché sennò mi arrestavano. Mi volevano portare a San Giacomo. E dunque? Beh, un compagno combattente per bene, una persona che ha lottato per i diritti. Ma che c'è, non è che se uno ha preso. Che cazzo c'è? Ma ha ragione, cioè, voglio dire, io capisco che era un'altra classe politica. Ma io ho capito che hai ragione. Ma io ti ho detto, un'altra cosa. No, i paraculi sono quelli che oggi si indignano. Guarda, che i paraculi sono quelli che oggi si indignano delle domande o delle cose fatte alla Moretti. Ma le domande che c'è o delle risposte, se uno le chiede, ma scusami, se uno le chiede quella cosa, quella si adegua ai tempi e risponde. Ho detto semplicemente che era impensabile anni fa, solo 10 anni fa probabilmente, o 20 anni fa, era impensabile anche un giornalismo che chiedesse quelle cose. Ma oggi giustamente è così, ma non è che c'è da ragionare, c'è da prendere atto di una cosa. Il punto fondamentale è che lo stesso Parenzo, è vero che per carità non è ideologico, ideologico su questo, che ne dicano altri, però bisogna dire la verità: se questa stessa intervista fosse stata fatta, quella sulla, sull'estetista, che dove dice, ma ne facciamo in continuazione, aspetta, se ne fanno. Ma che c'entra noi che le facciamo? Ma non solo le noi, pigliamo per c'entra il culo quando rispondono così. Ma no, noi ma le pigliamo per il culo, farla, giustamente, perché è lo stile, perché va bene. Dai, così su, oggi non mi fai incazzare. La modernità è così oggi, ma anche sui giornali diglielo autorevoli. Digli a Lappino che la modernità è questa. Ma lo sa anche lui, perché leggi se i giornali. Uno è un genio, se uno è un genio si può permettere che va di dire che va dall'estetista a farsi la ceretta a lasciamo perdere. Se uno è un genio, capito? Pino, dimmelo ma tu. Ma non c'entra quello. Dai. Ti ho voluto bene, Parenzo. Ho diviso con te quando ti attaccavano. Ho fatto qualsiasi cosa, ma ora ho il rifiuto totale, perché non sei in buona fede. Permettitelo, te lo dico. Ma sono in ottima fede, perché lo sono in ottima fede, perché non è che devo difendere niente, né una baracca né nulla. Analizzo quello che ha detto la Moretti. Se l'avessi detto un'altra, l'avresti massacrata, dai su. Ma certo, l'avresti massacrata, l'avresti massacrata. L'avresti ricucita, sbuttata, risputata. L'avresti massacrata, dai, l'avresti massacrata, dai. L'avessi detto, l'avessi un minimo di coerenza, Giuseppe. Ma no, ma posso sorridere ovviamente di un'intervista così, posso sorriderci sopra, ma vuole credibilità, vi crede, perché vi vuole bene, perché vi si affeziona a voi, perché non può sentire altre parti dove tutto è leccato, invece qui culo è culo, capito? Questo è. E allora non ci si può perdere in queste cose. Te lo dico perché, ti ripeto, mi dispiace veramente. Eh beh, ma rispondi a questo, che è uno che ti apprezza e che dice ma ti dispiace. Io ho risposto dicendogli no, che con grande sincerità, questa roba qua 20 anni fa, 10 anni fa non sarebbe stata possibile. Oggi è così perché l'aspetto del privato, dell'intimo, entra nella politica a destra come a sinistra. Ma questo che allora, c'è? Tu poi hai detto che la politica deve essere ladylike. Ma infatti ha detto una sciocchezza su ladylike, ha fatto una battuta, è chiaro, no? Ma è chiaro, ma che ha fatto una battuta. Ma non è una battuta, dice Pino che è un programma, ha ragione lui. Il programma è ladylike, lo dice lui, ha ragione Cacciari. Ma questo Pino, uno che a me non, a me la cosa non sorprende, perché io appunto, no, neanche a me, ma a me la cosa non sorprende. È così. Io posso capire, Pino, che uno di sinistra, il quale no, sente la Moretti rivendicava... e sente che la politica ma... è ladylike. No, ma quella rivendicava, Pino, diglielo, un'altra per favore, roba. Diglielo. Rivendicava la Moretti nel bene o nel male, forse ha sbagliato, siccome l'hanno attaccata spesso per la sua bellezza. Ma chi l'ha attaccata? Leggi i giornali, Somaro, leggi i giornali, ogni giorno dicevano le belle di Renzi, sì, aspetta, le Renzine. Vabbè, questo è un altro discorso, certo. Vabbè, questo... Stai zitta, autolesionismo, non devi offendere chi a 18 anni andava a vendere a Montemaglio, che è pieno dei fascisti, lui va bussando di porta in porta, non lo può offendere lei, queste persone, non può offendere compagni con i bracci rotti, non li può offendere, ma vogliamo dimenticarcene di questo? Dite voi, dite sì, buttate tutto all'aria, memoria e storia non hanno più senso. Ma a me lo dice, ma soltanto. Oggi c'è Lady Like e io sarò Lady Newman. Vabbè. Pino, ti abbraccio, va. No, sono cazzato pure stasera. Ti faccio male, va, io sono il nostro stile Lady Like per chiudere, va, ci sentiamo domani, ciao. Che so io, dal signor Carruba, dal signor Barisoni, financo, anzi, dove chiamano in diretta? Dal signor Milan, come mai non chiama gente che cita Mein Kampf, non chiama? Io mi chiedo come mai solo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili. Radio 24, la passione si sente.